La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alla curiosa vicenda che ha coinvolto la città di Udine. Gli abitanti hanno deciso nei giorni scorsi di cambiare il nome al piazzale intitolato al generale Luigi Cadorna, sostituendolo con il nome di Piazzale Unità d'Italia. Ne parliamo con lo scrittore Ferdinando Camon, ma la parola adesso va a Dino Pesole. La notizia è dei giorni scorsi. Gli abitanti di Udine hanno deciso di cambiare il nome al piazzale intitolato al generale Luigi Cadorna. La commissione per la toponomastica è d'accordo e la giunta ha votato. Il piazzale davanti all'ex caserma dei Vigili del Fuoco si chiamerà Piazzale Unità d'Italia. E così il discusso generale, che fu il comandante supremo dell'esercito nella prima guerra mondiale, fino a quando fu sostituito da Armando Diaz dopo la disfatta di Caporetto, viene per così dire ripudiato proprio dalla città di Udine, la sede del comando. Ordine del giorno all'esercito del 7 novembre 1917. Con indicibile dolore, per la suprema salvezza dell'esercito e della nazione, abbiamo dovuto abbandonare un lembo del sacro suolo della patria, bagnato dal sangue glorificato, dal più puro eroismo dei soldati d'Italia. Si torna così a discutere del ruolo svolto da Cadorna, sulle responsabilità che il generalissimo ebbe nel condurre una guerra molto sanguinosa fatta di attacchi alle trincee austriache che si trasformarono il più delle volte in un bagno di sangue. Vicende che Emilio Lussu ha raccontato in modo magistrale nel suo famoso Un anno sull'altipiano, scritto nel 1937. Sotto il titolo una citazione di Baudelaire. Ho tanti di quei ricordi che è come se avessi mille anni. Ogni palmo di terra ci ricordava un combattimento o la tomba di un compagno caduto. Non avevamo fatto altro che conquistare trincee, trincee e trincee. Presa una trincea, bisognava conquistarne un'altra. Sull'altipiano di Asiago stavamo stesi, ventre a terra, la testa appena riparata da qualche sasso e da zolle. Ad ogni raffica di mitragliatrice, ad ogni sibilo di granata, istintivamente facevamo ancora uno sforzo per occupare meno spazio e offrire meno vulnerabilità, schiacciandoci sempre più sul terreno, appiattiti fino alla linea del suolo. Anche adesso, a tanta distanza di tempo, mentre il nostro amor proprio mette in rilievo del passato solo i sentimenti che ci sembrano più nobili e accantona gli altri, ricordo l'idea dominante di quei momenti. Più che un'idea, un'agitazione, una spinta istintiva. Salvarsi. Soprattutto sull'altipiano di Asiago, dove esercito italiano ed esercito austriaco si fronteggiavano a pochi metri di distanza, con una successione ininterrotta di battaglie e valanghe di morti, andarono in scena autentici atti di eroismo. Osserva lo scrittore Ferdinando Camon. C'era un tale disprezzo per la vita dei soldati negli ordini di Cadorna che i soldati sentivano anche i propri comandi come nemici da cui difendersi. Tesi ovviamente non condivisa da quanti invece sostengono che il generalissimo fu un militare di prim'ordine. Ferdinando Camon ha scritto sull'argomento sulla Stampa del 10 giugno. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi. Scrittore di successo, lo conosciamo tutti, autore di numerosissimi libri, l'ultimo La mia stirpe. Eravamo nella stirpe prima di nascere, saremo nella stirpe dopo la morte, ma di questo parleremo dopo. Intanto ci spieghi da dove nasce appunto questo interesse per questa vicenda che obiettivamente, oltre a essere interessante dal punto di vista giornalistico, lo è anche dal punto di vista storico, se vogliamo. Mi ha stupito però un suo cenno sul generale Cadorna, difeso da molti storici, eccetera. In realtà il generale Cadorna fu oggetto di un esame dopo la disfatta, dopo la guerra, di una commissione d'esame istituita dall'esercito che attribuì a lui la responsabilità della disfatta di Caporetto, mentre lui la scaricava sui comandanti di divisioni o sui soldati, eccetera. Questa commissione dell'esercito ha fatto luce in maniera, diciamo così, ufficiale, quindi Cadorna può considerarsi condannato da un tribunale della storia, insomma. Ma io abito nel nord-est, abito a Padova, e uno dei miei luoghi di vacanza preferito è l'altopiano di Asiago. Lì mi piace andare molto spesso, in quel luogo bellissimo e terribile che è l'Ortigara, dove avvennero numerose di queste battaglie che Cadorna puntualmente ordinava e puntualmente perdeva. Io sono figlio di un contadino, ossequiente all'autorità, mio padre ha fatto la seconda guerra mondiale e raccontava di ordini pazzeschi, suo padre ha fatto la prima guerra mondiale, questa di cui stiamo parlando, e raccontava di ordini pazzeschi, eccetera. Anch'io ho fatto l'ufficiale degli Alpini perché sono stato invitato a fare la scuola ufficiale appena laureato, e trovo che era demenziale mandare questi nostri soldati all'attacco del Monte Ortigara, venendo dal monte di fronte che si chiama Caldiera, scendendo un lungo pendio esposto sotto il tiro delle mitragliatrici austriache, salendo poi il pendio opposto a petto nudo contro le mitragliatrici che sparavano dall'alto. Questi assalti erano dei continui massacri con migliaia di morti che rotolavano giù nel vallone che si chiama vallone dell'Agnellizza. E il generalissimo era assolutamente imperturbabile perché diceva che gli attacchi frontali rendono prima o poi, e frase sua, virgolettata, bisogna sempre attaccare frontalmente, il nemico prima o poi si stanca e spara alto, chiusa virgolette. Io trovo, se questa era la sua tattica, io la trovo una tattica demenziale e suicida, insomma. Sì, quindi... e infatti anche buona parte della storiografia ha ormai emesso il suo giudizio punto di vista. Sì. Allora, nel suo libro La mia stirpe, in qualche modo ritornano questi temi. In che modo, ci racconti? Ma perché La mia stirpe è il racconto delle vicende salienti di una stirpe, la mia, lungo 5 generazioni. Quindi il padre di mio padre, io, mio figlio e i figli di mio figlio. I punti salienti della biografia del padre di mio padre sono appunto gli attacchi sull'altopiano contro gli austriaci, gli ordini pazzeschi di Cadorna, questi reparti che scattavano l'attacco e questi ufficiali che gridavano avanti Savoia ripetutamente, finché gridavano avanti non riuscivano neanche più a dire il T, che erano già morti. Mi stava impresso questo sgomento di mio nonno, insomma. E tra l'altro nel libro di Emilio Lussu, famosissimo, che abbiamo citato prima, si parla espressamente, Emilio Lussu ricorda la sua tragica, drammatica esperienza sull'altipiano e dice: ogni palmo di terra ci ricordava un combattimento o la tomba di un compagno caduto, il che rende forse come non mai il senso di una guerra combattuta palmo per palmo, metro per metro, ma alla fine assurda anche da questo punto di vista. Assurda perché non si conquistava neanche un metro. C'erano puntualmente, ma ripeto che io sono uno scrittore, non sono uno storico, però certo, mi interessa di queste cose perché riguardano un po' la mia stirpe, per rifare al titolo del libro, e poi la mia vita di oggi, insomma. Io vivo qui, vedo questi campi di battaglia e mi meraviglio che le battaglie avvenissero così. C'erano un paio di volte all'anno dei meeting, delle riunioni tra alti ufficiali italiani e alti ufficiali alleati per esaminare l'andamento della guerra e vedere che cosa si poteva fare. Gli alleati numerose volte si sono offerti di mandare loro divisioni, loro aiuti per sbloccare la situazione, ma sempre a una condizione: che fosse sostituito il comandante supremo Cadorna. Non accettavano di veder morire i loro soldati, così come noi accettavamo di veder morire i nostri. C'è Francesco Rosi, ha ricavato un film dal libro di Lussu, bellissimo, un film tremendo e molto bello, che si intitola Uomini contro, sì, ed è rimasto fedele al libro, eccetera. E c'è una scena atroce, insostenibile, in cui un lungo attacco italiano contro una postazione nemica, un'intera divisione che va all'attacco di una trincea nemica, questo attacco finisce nel disastro, le mitragliatrici nemiche, le postazioni delle mitragliatrici si chiamano nidi, i nidi di mitragliatrici nemiche sono fortificati, inespugnabili, eccetera, e hanno una prospettiva libera per falciare i nostri soldati man mano che avanzano. Cioè, a un certo momento un gruppetto di ufficiali nemici che si alzano in piedi, seguono l'operazione col binocolo e uno di loro urla: basta soldati, valorosi soldati italiani, non fatevi uccidere così. Eravamo perfino oggetto della pietà dal nemico, insomma. È un film bellissimo, una magistrale interpretazione di Gian Maria Volonté, se non ricordo male. Ecco, ci dica l'ultima cosa, a distanza di tanti anni da questi eventi, l'annientamento di fatto di una generazione di giovani ventenni, perché questo fu il massacro della prima guerra mondiale, cosa insegna oggi ai giovani oggi e a noi tutti? Lei mi raggiunge al telefono nel mio studio e sono a Padova. In Padova ha una via dedicata a Cadorna, ha una piazza con una statua di Cadorna. Udine ha una piazza a Cadorna, Trieste ha una piazza a Cadorna, Verona ha una piazza a Cadorna, insomma, in tutte queste città hanno delle piazze e delle iscrizioni per Cadorna come se fosse un grande eroe. Ma è un esempio nefasto, è stato un comandante negativo. Erigere una statua o dedicare una strada a un personaggio della tua storia significa indicarlo come modello, dire alle nuove generazioni questo è un esempio di vita nell'arte, nella scrittura, nella scienza, in quello che è, o in questo caso nella sapienza militare. Ma indicare come modello di sapienza militare l'artefice del disastro di Caporetto mi sembra un non senso. Ecco perché ho pubblicato questi articoli la prima volta nel maggio del 2009. E che dopo un anno e mezzo Udine abbia deciso di cambiare il nome al piazzale Cadorna, lo sento come un piccolo risarcimento alle vittime di quella storia eroica ma funerea. Grazie, molte grazie Ferdinando Camoni. Grazie a voi. Basta soldato italiani, basta! Basta soldato italiano, non si può uccidere così! Tornate indietro! Basta! Stop! Basta! Basta! Basta! Basta! Con questa guerra di morti di fame! Contro morti di fame!